9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 5 ottobre, una giornata che dopo il declassamento di 3 gradini di Moody's ha naturalmente molte aspettative per vedere come reagiranno i mercati. Avete sentito dalle prime anticipazioni al giornale radio di Deborah Rosciani che il mercato oggi in realtà è orientato a un rimbalzo. Vediamo quali saranno poi le conseguenze sugli spread, sui CDS, la misura della distanza di solvibilità italiana del debito pubblico rispetto alla soglia di questi giorni che era intorno a 370-380 con punte di 390. Intanto il quadro europeo resta imperniato sui rischi di esposizione ai titoli del debito pubblico europeo del sistema bancario. Abbiamo capito in questi giorni che Dexia, che già nel 2008 l'istituto franco-belga era stato salvato grazie ai denari pubblici, si avvia a una sostanziale rinazionalizzazione o la chiusura delle sue attività transfrontaliere a una soluzione pubblica franco-belga. Anche sui giornali tedeschi oggi trovate molte notizie sulla necessità di una ricapitalizzazione tra lo spontaneo e l'obbligatorio del sistema bancario di quel paese, ed è la via della ricapitalizzazione bancaria una delle strade prioritarie se non vogliamo prendere in considerazione l'idea della monetizzazione del debito pubblico, di una parte consistente dei debiti pubblici dei paesi più euro a rischio. Intanto la Grecia continua ad aspettare la sua tranche di 8 miliardi e su questo quindi quadro non ci si può illudere sul fatto che i mercati non continuino il selling. Il selling non significa tutti i giorni andare giù, significa una linea complessivamente però indirizzata verso vendita di asset, verso il deprezzamento degli asset italiani e l'incorporazione del rischio paese nelle provviste di liquidità del credito trasferita a impieghi alle banche e impieghi alle famiglie. Questo è il quadro e questo è il quadro nel quale la politica è chiamata poi a misurare ciò che deve fare, ciò che non deve fare rispetto poi alla richiesta delle imprese e rispetto a le fenomeni vari e diversi di instabilità che sono peculiari a quel punto dei diversi paesi, e anche l'Italia è naturalmente nel mirino ed è in prima fila come primo euro emittente e quindi per apporto della sua richiesta al mercato è il paese che inevitabilmente dopo questo downgrading si troverà a ballare. Ma la puntata di oggi era in realtà stata decisa su un'altra questione, una questione che nelle ultime 48 ore aveva visto infuocati i nostri centralini. Un numero di richieste crescenti, di mail, di telefonate, di richieste di fare puntate per approfondire una particolarissima questione. Questa questione riguarda il rapporto tra il contribuente, il cittadino e l'amministrazione finanziaria. Perché? Perché grazie alla pubblicazione di un primo articolo sulla parte online finanziaria di Repubblica, su internet si era immediatamente propagata e diffusa, era rimbalzata la notizia di questa nuova circolare in vigore dal primo di ottobre, e questa circolare disciplina una delle novità nel rapporto tra chi è chiamato per l'amministrazione finanziaria agli accertamenti e poi all'esazione, quindi stiamo parlando dell'Agenzia delle Entrate e poi di Equitalia, e i termini di questa novità si riferiscono agli accertamenti fiscali esecutivi. Che cosa si diceva e si continua a dire intorno a questa novità degli accertamenti fiscali esecutivi? Cosa sono e perché rappresenterebbero una novità? Gli accertamenti fiscali esecutivi sono gli atti con cui l'Agenzia delle Entrate notifica al contribuente, in buona sostanza, alcune cose: i motivi per cui gli contesta un mancato pagamento di imposte, una quantificazione di ciò che l'erario chiede, della sua pretesa, e naturalmente degli interessi connessi e delle sanzioni, e poi l'intimazione a pagare entro un termine. In che cosa consisteva la novità e la gravità che ha iniziato ad allarmare tutti di questi accertamenti fiscali esecutivi? Nel fatto che rispetto agli accertamenti normali c'era una novità che riguardava l'intimazione al pagamento, perché negli avvisi di accertamento normali l'intimazione è affidata alla notifica, all'inoltro di un atto aggiuntivo, la cartella esattoriale di pagamento. E questo atto aggiuntivo è curata appunto da chi si occupa poi della riscossione. Naturalmente cartella significa tempi aggiuntivi, tempi lunghi aggiuntivi, un raddoppio delle procedure di notifica, un raddoppio esponenziale a volte degli errori formali e sostanziali che possono essere poi motivo di impedimento e di nullità, possono essere a propria volta impugnati dal contribuente e possono invalidare quello che l'erario chiede. Invece, con questo accertamento fiscale esecutivo, la cartella esattoriale non c'è più, si salta e quindi l'intimazione a pagare diventa immediata. Nella notizia della circolare attuativa dal 1 ottobre di questo nuovo istituto, l'accertamento fiscale esecutivo, si diceva: attenti tutti, allarme rosso, perché il termine dalla notifica dell'avviso di accertamento è solo di 60 giorni. Quindi vi può arrivare una cartolina che voi non avete, magari perché non c'avete il portiere, o magari perché la posta ha dei meccanismi di consegna un pochino non troppo disciplinati. Voi questo avviso, l'accertamento fiscale esecutivo, non riuscite neanche a vederlo, ma dal 60° giorno, a quel punto, automaticamente l'Agenzia delle Entrate è automaticamente in grado di pignorarvi quello che avete, di entrarvi sui conti, di bloccarvi la facoltà di pagare ciò che dovete o ciò che dovete incassare o ciò che dovete pagare ai vostri fornitori e creditori, di bloccarvi la vostra microimpresa e di pignorarvi immediatamente e di emettere ipoteche su tutto quello che avete. Voi capite che questa novità, descritta così, ci ha a tutti quanti provocato un piccolo collasso nervoso e immediatamente una preoccupazione immediata, perché si tratterebbe di un indurimento dei termini a favore di chi per l'amministrazione tributaria accerta, intima e incassa subito, che per così dire imbarbarirebbero, questa è la formula che uso io, ma per capire, allarmerebbero almeno milioni e milioni e milioni di italiani. Allora, la prima domanda che ci siamo posti è quella di capire e di spiegarvi, vista la quantità di voi che ci hanno richiesto questo chiarimento, se davvero questo nuovo istituto funziona così, altrimenti di farlo spiegare innanzitutto da chi questo istituto lo maneggia, per così dire, prima di passare alle nostre interpretazioni e ai nostri commenti. E quindi io ringrazio del fatto che Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, e lui poi che ha anche inventato Equitalia, insomma il vertice dell'amministrazione tributaria dal punto di vista tecnico e funzionale nel nostro paese, è persona di assoluta competenza, qualunque cosa ne pensino gli appartenenti alle diverse scuole del diritto tributario italiano, questo giudizio è unanimo. Io lo ringrazio di essere qui con noi per chiarire in termini trasparenti anche all'ascoltatore che non è troppo esperto di tecniche e procedure tributarie se questo nuovo istituto, l'accertamento fiscale esecutivo, veramente risponde a questa caratteristica: 60 giorni, dopodiché mano libera allo Stato per bloccare tutto, pignorare tutto, ipotecare tutto, congelare i conti. Buongiorno, buongiorno. E grazie a Tilio Befera, e ci spieghi un pochino se è fondato questo allarme o altrimenti come funziona. E io la ringrazio dell'occasione che mi sta dando, perché mi consente di far rientrare questo allarme. Probabilmente il giornale non si è letto tutto l'articolo, hanno letto soltanto il primo comma. Ecco, non c'è nessunissimo pericolo. Allora, innanzitutto abbiamo tolto la cartella di pagamento, il Parlamento ha tolto la cartella di pagamento perché è uno strumento antiquato e del tutto inutile in caso esclusivo di accertamento. Quindi la prima considerazione da fare è questa: questa nuova regola riguarda soltanto gli accertamenti, non riguarda i controlli formali delle dichiarazioni, quindi quegli controlli che sono relativi a eventuali errori formali nel fare la dichiarazione, o i controlli relativi alla deducibilità degli oneri, quindi i controlli relativi alla documentazione necessaria. Così come ne riguarda i crediti dei comuni e di tutti gli altri enti che si avvalgono di Equitalia per la riscossione. Quindi sgombriamo il campo. Tutti gli errori formali della dichiarazione sono fuori i comuni, sono fuori tutti gli altri enti. Parliamo esclusivamente di procedure di accertamento che hanno già visto comunque un contraddittorio contraddittorio fra l'Agenzia delle Entrate e il contribuente, quindi al contribuente è noto che c'è un accertamento. Primo. Secondo, non è assolutamente vero che passati 60 giorni parte Equitalia e fa degli sfracelli, nel senso che passati 60 giorni l'agente della riscossione comunque deve attendere ulteriori 30 giorni per avere l'ok da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla possibilità di operare, dopodiché sta ferma 180 giorni. C'è una sospensione automatica prevista dalla legge, quindi complessivamente ci sono 270 giorni dal momento della notifica dell'accertamento prima che Equitalia possa fare dei passi di procedure esecutive, 270 giorni sono 9 mesi. Con le procedure ordinarie e con i tempi attuali delle procedure ordinarie, quindi con la cartella di pagamento, andiamo intorno ai 12 mesi, quindi l'anticipazione è di circa 3 mesi, poi dipende da specifiche situazioni. Quindi non succede assolutamente nulla, il contribuente ha tutto il tempo per fare l'eventuale ricorso, le commissioni tributarie che sono state velocizzate con la stessa norma, perché le commissioni tributarie non dovrebbero più occuparsi dei contenziosi di importo inferiore a 20.000 euro, perché dal 1 aprile è stato introdotto la mediazione, quindi è stato introdotto un nuovo istituto che consente all'amministrazione finanziaria e al contribuente per queste piccole cifre di trovare comunque una soluzione. Questi contenziosi purtroppo in Italia rappresentano il 60% dei ricorsi che vanno in commissione tributaria. Togliendo questi, la commissione tributaria si potrà occupare soltanto di questioni di importo più rilevante e avrà tutto il tempo anche per esaminare le richieste di sospensione dell'accertamento esecutivo, eventualmente richieste dal contribuente, e anche andare a sentenza probabilmente. Quindi non c'è nessun rischio particolare. Allora, noi abbiamo con noi, per rivolgere quesiti tecnici proprio su questa norma, e ricordo anche a lui, sempre con un linguaggio comprensibile per il contribuente che non sia commercialista, Enrico Zanetti, che è direttore di eutecnic.info, è un dottore commercialista ed è, diciamo, uno dei vertici dell'opera di divulgazione che poi i commercialisti e esperti contabili fanno tutti i giorni in internet, nei loro convegni, oltre che nella loro attività professionale, nei loro studi, esattamente sui temi del rapporto tra contribuente e amministrazione tributaria. Allora Enrico Zanetti, grazie, e approfittiamo di avere ancora per qualche minuto con noi Befera per chiedergli il chiarimento di Befera da questo punto di vista. Risolve ogni questione, perché anche lei aveva scritto in questi giorni sullo stesso tema dell'accertamento esecutivo, oppure no, a suo giudizio? Bene, innanzitutto buongiorno a lei e agli ascoltatori e al direttore Attilio Befera. Diciamo che le problematiche connesse agli accertamenti esecutivi sono qualcosa che ci occupa da circa un anno, perché l'introduzione a livello normativo di questo strumento è stata concepita nell'estate del 2010 e nella versione originaria in cui era stata concepita, oggettivamente il quadro a tinte fosche che è stato disegnato in questi giorni era molto similare alla realtà. Successivamente però, grazie anche a un'opera di confronto tra tutti gli interlocutori tecnici, in occasione della conversione in legge del decreto sviluppo questa primavera, sono state introdotte delle norme che hanno sicuramente contemperato le esigenze di una riscossione più efficiente, ma anche di una maggiore tutela per il contribuente. Rispetto a questo è assolutamente vero e corretto, ma poi non fa certo a me quel dire se è vero o falso quello che dice una persona autorevole come il direttore del Tizio Befera, ma è assolutamente, non posso che confermare il fatto che quello che si è letto, lei citava l'articolo prima di Repubblica, è stato fortemente allarmistico e impreciso rispetto alla realtà dei fatti. In particolare lì si parlava anche di pignoramento, ecco, il pignoramento è escluso che possa essere attivato prima, appunto, come si ricordava, di 90 giorni più ulteriori 180, quindi 270. Diverso però invece è il discorso per gli atti di natura cautelare, quindi le iscrizioni di ipoteche e i fermi amministrativi. Quelli in realtà dopo 90 giorni dell'accertamento possono già essere fatti. Aspetti un secondo Zanetti. Befera conferma 90 giorni gli atti cautelari, quindi il ganasci, gli atti cautelari possono essere fatti anche in fase di accertamento se c'è il rischio di sottrazione dei beni, quindi da questo punto di vista era una norma esistente che c'è ancora, e effettivamente possono essere fatti comunque atti di cautelari per evitare la perdita del bene o del reddito. subito. Benissimo, perché questo deve tutelare l'amministrazione tributaria dall'ipotesi che sparisca poi quello che poi invece può essere l'esito di ciò che lo Stato ritiene di dover chiedere e di quindi di... Beh, comunque vorrei ricordare che prima di fare un'ipoteca Equitalia deve mandare un avviso. Deve mandare l'avviso, quindi... appunto, non è che qui aboliamo improvvisamente tutto ciò che vige nel nostro codice. Allora Zanetti, poi oltre a questa chiarezza sui provvedimenti cautelari, altro? Diciamo che comunque così costruito l'insieme determina un'accelerazione ragionevole, come è stato appunto sottolineato. Sarei meno tranquillo sul fatto che la giustizia tributaria abbia oggi le reali possibilità di sostenere questa ulteriore accelerazione dei tempi della discussione. Perché noi infatti abbiamo più volte sottolineato come lo strumento in sé lo riteniamo condivisibile, il fatto che ci debba essere una cartella di pagamento, un balletto di raddoppio di notifiche, sulle quali peraltro poi finisce che molti si attaccano per annullare accertamenti magari in quei casi assolutamente corretti, ma per vizi formali, è qualcosa che assolutamente non ci appassiona, quindi il fatto di saltare questo doppio passaggio è da un punto di vista procedurale corretto. Noi abbiamo sempre insistito sul fatto che anche per mantenere un rapporto più sereno tra fisco e contribuente, anziché non accelerare la riscossione, era giusto farlo, ma parallelamente potenziare l'apparato della giustizia tributaria, cosa che a oggi francamente riteniamo non sia stato fatto. Beffra, noi abbiamo molti ascoltatori, poi la lascio libero perché poi... Semplicemente che dottor Zanetti dimentica sempre la mediazione, sono importi inferiori a 20.000 euro e sono circa 100.000 ricorsi inutili l'anno. Togliendo questo, forse le commissioni tributarie riescono a lavorare con la celerità dovuta. Sarebbero meno ingolfate. Moltissimi ascoltatori, anche se il problema non riguarda la sua facoltà decisionale, però chiedono, è possibile mai che per un giorno di ritardo nel pagamento del 740 io debba essere sanzionato con il 10% di imposto versato, cosa che magari può capitare e che non contraddistingo in alcun caso una volontà da parte del contribuente a sottrarsi ai propri doveri fiscali? Non si potrebbe distinguere l'ordine e la quantità della sanzione commisurata a tempi tali da a quel punto far scattare il legittimo sospetto che si tratti di qualcuno che vuole sottrarsi ai suoi doveri? Ma guardi, è come quando si paga il mutuo, la rata del mutuo in banca, si potrebbe dire alla banca: se io del ritardo di qualche giorno non mi fare gli interessi di ritardo, dammi il tempo e così via. Esistono delle regole, le regole vanno applicate e non si può discriminare sulle regole. O meglio, si possono modificare le regole. Allora, da un lato è stata introdotta una regola che in caso di errori formali, che comunque non implicano la capacità comunque dell'amministrazione di controllare, quindi non sono elusivi o evasivi, c'è una eliminazione delle sanzioni o comunque una riduzione. Si sta lavorando per attenuare gli effetti dei ritardi limitati nel pagamento, cioè oggi le norme sono tali che se si ritarda di un giorno o di 100 giorni si ha lo stesso effetto negativo sanzionatorio. Ecco, forse qui bisogna operare un minimo di differenziazione, tenendo conto che il danno poi per quanto riguarda l'amministrazione, lo Stato, è comunque più limitato se il ritardo è contenuto. Posso chiedere un giudizio, l'ultima domanda davvero, su ciò che in molte regioni nell'ultimo paio d'anni, dal basso, con fenomeni di raccolta di protesta di coloro che erano sottoposti alle procedure di Equitalia, ha visto determinarsi veri e propri fenomeni di raccolta della protesta da parte di politici locali. Da questo punto di vista, voi cosa avete aperto? Un canale istituzionale di confronto con questi? Oppure guardi, no? Noi abbiamo dei canali aperti, sia come Equitalia che come Agenzia Entrate, con l'ordine dei commercialisti provinciali, regionali e nazionali, con le associazioni di categoria, con tutti coloro che partecipano comunque al processo impositivo. C'è qualche politicante di secondo livello che per raccogliere voti cerca di manipolare queste situazioni e di sfruttarle a proprio piacimento, ma questo è, ovviamente non sono cose che ci interessano più di tanto. C'è un problema fondamentale che in alcune regioni e in alcuni settori economici la crisi ha morso fortemente e ferocemente. In questi casi chiaramente il dovere tributario diventa più pesante per i soggetti economici. Qui però si tende a scaricare su Equitalia, quasi quasi a chiedere una discriminazione, una discrezionalità ad Equitalia, che non può e non deve avere, perché Equitalia non può che operare secondo le norme. Il problema è che bisogna andare a monte prima del pagamento di imposte, quindi andare a cercare di capire dove la crisi ha colpito e fare degli interventi di natura economica e comunque interventi di natura politica, non spettano a noi, per attenuare gli effetti della crisi. In effetti spessissimo, e con questo do congedo e ringrazio Befera per il tempo che ci ha dato, moltissimi piccoli imprenditori, commercianti, artigiani, professionisti lamentano il fatto che non sia possibile avere un rapporto ad personam che consenta a quel punto alle procedure di esazione, quelle coattive, di essere commisurate magari al fatto che uno si trova in difficoltà assoluta perché non viene pagato dai propri clienti, perché ha esaurito il patrimonio, non ha riserve di liquidità a cui attingere, e dice: in questo caso sarebbe interesse stesso dello Stato esaminare insieme a me la pratica e dire: io non è che non voglio pagare, ma dammi il tempo commisurato alla mia situazione. Naturalmente questo implicherebbe milioni di rapporti personalizzati, è una richiesta che io francamente ho sempre capito e sostenuto, però naturalmente questo implica una rivoluzione nel rapporto e nella concezione stessa degli uffici. Ma innanzitutto ricordiamoci che c'è un articolo 53 della Costituzione, quindi ognuno deve contribuire secondo la propria capacità contributiva. La discrezionalità nel campo fiscale è pericolosissima, pensi se lo facesse Equitalia da sola senza una norma d'appoggio, saremmo attaccati da tutti, no? Chiunque direbbe che lo fate per amici e non per ricordiamoci gli altri. Ricordiamoci sempre anche quello che diceva Shakespeare, cioè le buone ragioni abbondano come le more, per cui ognuno avrebbe una propria buona ragione per non pagare o per ritardare il pagamento, quindi nel campo dell'imposizione tributaria la discrezionalità è pericolosissima. È chiaro che se una norma è stata fatta, quella sulla reateazione, abbiamo fatto degli interventi amministrativi laddove era possibile farlo, ma ovviamente facendoli uguali per tutti, ecco, però ci vogliono norme, e norme anche forti, per pensare ad un sistema in cui la discrezionalità ha un suo ambito di accoglimento. Posso fare un'ultima osservazione rapidissima sulla rateazione? Perché io non ho mai capito una cosa, perché per presentare l'istanza di rateazione, questo anche ci è stato fatto presente da molti ascoltatori, secondo le norme bisogna aspettare che scadano i termini, e a quel punto però si finisce per essere inadempienti, e quindi nella rateazione bisogna pagare pure gli agi di riscossione e gli interessi di mora. Non è un po' un controsenso? No, guardi che ci sono vari tipi di rateazione. In sede di adesione all'accertamento c'è già una rateazione per la quale era prevista prima addirittura una fideiussione, ovviamente vista la crisi del sistema delle imprese abbiamo tolto questa, il Parlamento ha tolto la garanzia fideiussoria, quindi in sede di accertamento si può rateizzare. In sede di pagamento dell'imposta in autotassazione, l'F24 per intenderci, si può pagare in 6 rate. E poi l'ultima chance è in sede di cartella di pagamento, in cui ci sono 72 rate, quindi è possibile pagare in 72 rate. È chiaro che in questo caso sono già scattati gli interessi di morellaggio. Bene, io ringrazio Befera, ora andiamo in pubblicità. Grazie a lei. Grazie del chiarimento che ci ha dato. Eccoci tornati qua in studio. I problemi del rapporto tra contribuente e amministrazione tributaria, abbiamo fatto chiarire a Befera i termini dell'accertamento esecutivo, un po' diversi da quelli che erano stati paventati. Comunque l'amministrazione tributaria abolisce la cartella, e seppure con i tempi fino a 270 giorni che avete udito, ma è in grado ovviamente di assumere le misure cautelari per preservare il bene su cui magari ha messo gli occhi, da cui può provenire poi il pagamento di cui chiede l'effettuazione al contribuente. Questo aspetto particolare però è uno degli aspetti di questa questione fiscale che è sempre al centro delle proteste, perché naturalmente questo è inevitabilmente collegato anche all'aumento della pressione fiscale. Noi ci avviamo a un 2012 che per effetto delle nuove misure tra luglio e agosto segnerà il record della pressione fiscale nella storia del nostro paese, si va oltre quota 44%, e mi tocca dire che questo avviene mentre anche ieri si è aggiunta Goldman Sachs a JP Morgan, che nell'aggiornamento al ribasso delle attese di crescita di tutti i paesi dell'Eurozona preconizza per il 2012 per l'economia italiana un bel segno meno. Quindi il record della pressione fiscale avverrà quando il denominatore si contrae del PIL, che non è proprio il massimo che si possa immaginare, visto che l'effetto che avrà su investimenti, crescita, occupazione sarà inevitabilmente restrittivo, di aggiunta alla restrizione. Allora, Zanetti voleva fare un'ultima considerazione sulla mediazione. Sì, sulla mediazione io ho sentito quello che è stato giustamente osservato in ordine al fatto che con l'istituto della mediazione le cause sotto i 20.000 euro di valore saranno veicolate appunto al di fuori del contesto della giustizia tributaria, così sgravandone l'attività. Quello che però mi sembra importante e sottolineare è che questo istituto della mediazione non è magari quello che a prima vista la parola può far sembrare, perché mediazione io credo che induca a intendere che c'è il contribuente, c'è l'amministrazione finanziaria e c'è un soggetto terzo, mediatore, decisore, un giudice di pace o quant'altro. In realtà questo soggetto terzo è né più né meno che un altro ufficio sempre dell'Agenzia delle Entrate, il che vuol dire che sicuramente ci sarà un riesame approfondito del caso, però da questo a pensare che ci possa essere un numero elevato di situazioni in cui l'accertamento venga annullato e in caso in cui non venga annullato non ci sia comunque la volontà di andare a fare ricorso successivamente davanti alla commissione tributaria, mi sembra una speranza forse eccessiva. Qualche miglioramento ci potrà essere, però è chiaro che il contribuente, vedendosi rifiutato magari la sua posizione in un contesto di mediazione, con una che è mediazione un pochino per modo di dire, diciamo che è un ricorso amministrativo interno, è più proprio definirlo così, probabilmente ricorrerà comunque, perché fino a che non si sente dire no da un soggetto che avverte realmente come terzo, diciamo che la mediazione è una cosmesi semantica che non cambia la natura del nostro contenzioso tributario, in cui lo Stato rifiuta di essere soggetto che si sottopone a un giudizio che sarà sicuramente coinvolto nel ruolo di valutatore del ricorso fatto dai colleghi, sarà sicuramente un ufficio diverso da quello che ha fatto l'accertamento, su questo io non ho dubbi, e non ho anche dubbi che ci sarà la massima equanimità nel fare tutte le osservazioni del caso, però è chiaro che dal punto di vista del contribuente, se non si vedrà dare ragione in quella sede, difficilmente rinuncerà, posto che a quel punto rimane possibile, a dire comunque la commissione tributaria, perché per quanto sia sicuramente meritevole di fiducia il nostro apparato, la nostra amministrazione finanziaria, una cosa così costruita non dà un senso di terzietà particolare. Naturalmente io ricordo a tutti che a dire la commissione tributaria significa comunque pagare il 30% delle maggiori imposte e gli interessi richiesti, perché questa è un'altra nelle more della sentenza, certo, nelle more questa della sentenza, è delle 60 giorni bisogna pagare il 30% delle maggiori imposte e i relativi interessi, mentre le sanzioni restano sospese fino alla sentenza di primo grado. E questa è un'altra cautela proprio vantaggio. Se io non entro in commissione e mi fermo magari al parere negativo in sede di ricorso amministrativo, perché preferisco chiamarlo in questo modo per le ragioni che ho esposto, e comunque allora devo pagare tutto. Cioè, certo. Il fatto che con questa norma davvero si andranno a sgravare in modo importante le commissioni tributarie, rendendole così sufficientemente celeri rispetto all'accelerazione della discussione, mi sembra più una speranza che una certezza. Non lo so, il parere dei vertici dell'amministrazione tributaria è che questo consentirà di innalzare la percentuale a favore dello Stato del contenzioso, perché siccome noi eravamo in una percentuale storica che riguardava oltre il 50% delle richieste dello Stato in sede di contenzioso, invece venivano rifiutate allo Stato, che era una percentuale elevatissima e che quindi faceva. Ecco, adesso invece Befera proprio ieri sera mi ha detto: ma no, perché noi anche grazie a questo ci concentriamo oramai, e in termini di valore noi siamo su un 70% di percentuale che ci viene riconosciuta. Guardi, rispetto alle nostre richieste. Il dato del 41% è un dato che si legge nella relazione presentata dal Comitato Centrale di Presidenza della Giustizia Tributaria relativo al 2010. Esatto. Quindi lui però dice: vedrete in questo 2011 come vi stupiremo. Lo Stato oramai ha ragione del 70%. Allora, io ringrazio Zanetti, ed è stato pazientemente in attesa per troppo tempo, e me ne scuso, perché non avevo visto qui il suo nome segnalato come se fosse collegato. Colpa mia, e me ne scuso. Il professor Raffaello Lupi, che insegna diritto tributario a giurisprudenza all'Università di Roma, Tor Vergata, e che diciamo è diventato uno dei miei nomi tutelari tutte le volte che parliamo del rapporto tra cittadino con l'amministrazione tributaria, e però politica tributaria, perché questo aspetto poi non ce lo dimentichiamo. Allora, le chiedo, professor Lupi, questo nuovo istituto, nel quadro di quello che è avvenuto in questi ultimi anni, del giro di vita che c'è, delle misure di della coerenza tra questa politica tributaria che si intosta rispetto a una politica economica che non c'è, che impressione le ha suscitato? Ma questo non è un giro di vita, mi pare che anche Zanetti è d'accordo che è l'eliminazione di un atto inutile. Se l'avviso di accertamento non arriva perché c'è un disguido postale, non è detto che poi il disguido postale non si verifichi anche per il ruolo. Quindi l'abolizione dell'iscrizione al ruolo per le imposte accertate ci sta in pieno, cioè la pressione fiscale riguarda chi paga. Qui ci sono 700-800 mila entità che dichiarano redditi palesemente ridicoli rispetto alle dimensioni. C'è un problema, una cosa che diceva Befera, infatti io gliel'ho ripresa: il problema non è la lotta all'evasione in Italia, è la richiesta delle imposte su un mondo di lavoro autonomo e di piccole aziende che non vedono mai nessuno. Quindi c'è da velocizzare, cioè non si tratta di torchiare quello che capita nella macchina, si tratta di sistematizzare, di rendere a regime. Io sa che teorizzo la tassazione attraverso le aziende, sì, cioè sì, gli esattori sì. Sono le aziende di una certa dimensione, poi dove le dimensioni non ci sono, dove c'è il negoziante, il piccolo artigiano, lui se non vede qualcuno che gli chiede le imposte, ovviamente non paga, e se guardiamo le statistiche certe volte ho l'impressione che paghi pure troppo. Quindi se non ci va qualcuno a bussare, se per richiedere 4-5 mila euro che stanno sempre sotto, perché io non so cosa ne pensa lei, ma secondo me è difficile che ci sia un autonomo che opera con consumatori finali, che dichiara tutto. Ci sono delle situazioni di grosse discrepanze dove bisogna intervenire, c'è una piccola cresta, chiamiamola così, che faranno tutti. Quindi c'è una necessità di intervento massivo dell'Agenzia delle Entrate, non per punire, non per crocifiggere come hanno fatto, peccato se n'è andato il dottor Befera, se no effettivamente quelle pubblicità sull'evasore, la figura antropologica dell'evasore, sono dannosissime. Lo sa perché? Sono d'accordo con lei, l'ho detto più volte, ma sono interessato a capire perché. Perché bloccano la valutazione degli uffici, cioè se quello è l'emanazione di Satana, no? Non vorranno più definire. Trovano un elettrauto che ha dichiarato 15.000 euro, gliene chiedono 100, lui ne ha guadagnati 50, vorrebbe trattare, e quelli dicono no, vade retro, io non parlo, puzzi di zolfo. Capito qual è il problema? Sì, quindi sì. Il problema è il dialogo e una trattativa ragionevole, ma con quell'immagine, cioè, ma tu sei stato ragionevole con il diavolo, cosa ti ha dato? Esatto. Capito? Dialogo sì, diavolo no, questa mi sembrerebbe esatto. La sintesi. Va bene, un po' di rapidi ascoltatori per dirci loro che cosa pensano, la loro esperienza invece ovviamente di questa versione diavolante e non dialogante dell'amministrazione tributaria, soprattutto delle campagne d'immagine. Io ho detto chiaramente che comunque quello spot, oltre che il diavolo diceva, danneggia anche me. La verità amara è che io vorrei che Befera potesse retrocedere a chi le tasse le paga immediatamente tutti gli effetti delle campagne di riscossione e dell'esazione coatta. In quel caso secondo me diventerebbe Sant'Attilio uno dei patroni d'Italia, la gente scenderebbe nelle piazze dicendo di più, ma finché si becca tutto lo Stato in più non è vero quello che diceva lo spot, che in realtà l'evasore mi danneggia. L'evasore dà meno soldi allo Stato, che però se li piglia per sé, non li dà a noi contribuenti, non è che noi paghiamo di meno quelli in regola per ogni evasore acchiappato. Sentiamo Roberto da Ferrara, prego Roberto. Buongiorno dottor Giannino, questa mattina ho sentito la trasmissione, proprio non sono riuscito a fermarmi a chiamare. In breve, qui si parla di politica fiscale, però è demonizzato appunto la figura di chi dell'evasore, però senza tener conto che lo Stato dovrebbe essere un soggetto detto che deve dare il buonissimo esempio. Come dicevo al suo collaboratore, io sono protagonista, vittima, come tanti altri italiani, di questo sistema, nel senso che io sono un medico, ho fatto delle specializzazioni negli anni 80 e per queste specializzazioni lo Stato italiano chiaramente non pagava niente, a differenza degli altri Stati europei. Per questo motivo l'Italia è stata condannata anche dalla Corte Suprema europea all'inizio degli anni 90 e mano a mano quelli che avevano conseguito questo tipo di diritto hanno fatto ricorso allo Stato per il loro giusto indennizzo. In sostanza, risultato bravissimo, dopo 10 anni che insieme a decine e centinaia di colleghi, io vanto un credito allo Stato di 160.000 euro sancito da due sentenze di giudizio. No, ma il bello ancora deve venire. Altri sono già stati addirittura in Cassazione con sentenza positiva, non so se sono stati liquidati. Nel contempo, pur vincendo, abbiamo dovuto pagare le tasse di registrazione, perché se le persone non lo sanno, se tu vinci con lo Stato, pur vincendo devi pagare tu le tasse di registrazione, che per la nostra causa collettiva sono state solo qui a Ferrara di 36.000 euro. Quindi, qui, sì, 36.000 euro, 600 euro a persona, perché siamo in 60. Quindi, vantiamo un credito enorme, non possiamo dedurlo dalle nostre tasse. Abbiamo dovuto pagare le tasse sulla vittoria di due gradi di giudizio. Mi pare, Roberto, che abbia espresso in termini chiari la simmetria, per così dire, delle garanzie che vengono reciprocamente riconosciute nel rapporto tra Stato e contribuente. Isa, dalla provincia di Padova, prego, rapida. Sì, buongiorno a lei e alla mia radio. E praticamente un esempio concreto: nel 2002 ho fatto un modello unico per ricevere un rimborso, insomma, dovevo ricevere dei soldi, non ho fatto il 730 a tempo, ho fatto l'unico, e dal 2002 dopo i signori mi hanno contestato che non è stato consegnato per tempo, anche se io l'ho fatto tramite il sindacato. Poi dopo lo Stato, cioè l'Agenzia delle Entrate, sull'insediamento di mia moglie del 2005 mi ha contestato che non è stato pagato sulla PFR un surplus, e poi dopo l'ho pagato quest'anno, insomma dal 2005 al 2011, 6 anni, lo Stato mi chiede quei soldi. Invece il sottoscritto, che adesso per non poter dimostrare sulla raccomandata che era poco leggibile la data della spedizione, il sottoscritto non riceve quei bei soldini che mi toccavano, insomma. Quindi questione è l'inattestabilità della data in cui è stato effettuato il pagamento, perché la ricevuta è illeggibile, ho capito bene? Non è molto leggibile, ho dovuto anche chiedere alle Poste, ma le Poste dopo 5 anni non hanno nessun documento. Mi rendo conto. Paolo da Venezia, rapidissimo. Paolo da Venezia c'è? Non c'è Paolo da Venezia, allora c'è l'informazione sulla circolazione stradale. Di studio, nel frattempo, a 20 minuti dall'avvio dell'operazione di mercato, lo spread BTP Bund non sembra registrare significativi movimenti rispetto a ieri, dopo il downgrading di 3 notch da parte di Moody's. Siamo sui 374, 378, 380 punti base, ma non si vedono per il momento accelerate. Significa che praticamente la mattina dovrebbe restare orientata così sui mercati finanziari europei, che sono in rialzo per la chiara definizione del problema Dexia, perché francesi e belgi mettono mano al portafoglio. Il problema è vedere poi, quando iniziano i futures un'ora prima di Wall Street, come va il resto della giornata e quali dati escono in giornata su Stati Uniti ed Euroare. Cerchiamo di estendere ancora il nostro ascolto, perché abbiamo con noi Andrea Impera, che è presidente del Movimento Artigiani Commercianti Libera Sardegna, che saluto. Buongiorno Impera. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. E anche Alberto Goffi, consigliere regionale UDC, che abbiamo avuto più volte ospiti, ha sentito forse Befera, che nella prima parte della trasmissione ha detto che questi politici locali che tentano di manipolare i dati veri delle cose lo fanno per consenso. Goffi, è uno di quelli lei? Io ho invitato Befera 1000 volte a venire con me nelle aziende, anche perché da burocrate di Stato è ben facile fare degli aggiustamenti, non sapendo però quali risvolti possono avere questi aggiustamenti sulle migliaia di imprese che vivono la crisi industriale. Quindi io lo invito volentieri a venire a fare una passeggiata con me, secondo me si cambia l'idea, ecco. E questo non lo so, perché mi pare difficile convincere a volte Befera di queste cose. Impera, la situazione del movimento, insomma, la Sardegna è stato uno dei centri che si è messa alla testa, per così dire, sono state proteste effettivamente di quelle che è raro vedere in Italia, perché io sono perché i cittadini e i contribuenti si facciano vedere nelle piazze. Più aperto è il dialogo, la richiesta di chiarimenti e la protesta, secondo me meglio è per tutti, perché altrimenti non ci si distingue da questo fenomeno, l'evasore senza faccia, diabolico, non c'entra niente. Dal vostro punto di vista le cose come stanno? Ma le cose come stanno? Stanno che questo signor Befera, sinceramente, oltre ad essere un burocrate, forse veramente vive sopra le nuvole, perché se scendesse un attimino dalle nuvole, venisse un attimino sulla terra insieme a noi poveri mortali, potrebbe capire che noi abbiamo fatto 4 manifestazioni in Sardegna, perché siamo allo stremo delle forze, siamo una popolazione che ormai non ce la fa più, non abbiamo più lavoro, l'ultima manifestazione ci hanno preso a manganellate, hanno sparato dei lacrimogeni, è qualcosa di vergognoso quello che era successo, perché non ci vogliono ascoltare. Dopo che abbiamo fatto queste manifestazioni, dopo che abbiamo spiegato che il popolo sardo è allo stremo delle forze, non troviamo i soldi per pagare le tasse, perché molti di noi hanno sempre pagato regolarmente, io sono uno di quelli, fino a gennaio io non ho mai sgarrato una volta di poter pagare le tasse, da gennaio sto avendo dei grandissimi problemi perché il lavoro è calato e come me siamo a migliaia, perché siamo a migliaia, il movimento è formato da 50.000 persone momentaneamente, ma stiamo crescendo ogni giorno di più. Ecco, questo signore praticamente, dopo che ha visto tutte queste manifestazioni, dopo che ha visto la popolazione in piazza, perché si parla di 20.000 persone che scendevano in piazza ogni volta a manifestare lo stremo delle forze, a dire non ce la facciamo più, niente, invece di dare una mano, cioè di allungare la mano ai signori politici per dirci diamo una mano e cerchiamo un attimino di recuperare la situazione, hanno finito di stringere la morsa, cioè praticamente questo è il colpo finale, cioè in 60 giorni loro ci vorrebbero praticamente portare via i nostri beni, perché se noi non abbiamo potuto pagare fino a ieri, oggi non è che abbiamo i soldi per poter pagare, e se ci dicono che ci fanno paura per i 60 giorni noi ci spaventiamo e andiamo a rubare per pagare le tasse o per pagare quello che dobbiamo. Qui c'è una situazione da andare a verificare caso per caso, perché è giusto che gli evasori vadano a pagare, ma questo non è il modo, questo non è assolutamente il modo, questo è l'unico modo necessario praticamente per distruggere le persone oneste, persone che hanno sempre pagato, persone che adesso hanno dei problemi e vanno aiutati. Qui si parla sempre di qualcosa a carattere straordinario. Ecco, a carattere straordinario questi signori dovrebbero un attimino capire che devono dare una mano durante la crisi, non finire di darci il colpo finale. Perché questo è il colpo finale. Chiarissimo. Allora, Lupi, qui c'è un problema che secondo me verrà aggravato anche dal fatto che c'è l'uscita di 500.000 soggetti dai 600.000 che avevano diritto al regime del forfettone del 20% fino a 30.000 euro di giro d'affari in Italia, e anche lì l'idea è stata quella di che molti stavano in questo regime a forfè solo per convenienza, e quindi è stato limitato solo ai giovani sotto 35 anni, il quinto anno di startup, e quindi praticamente 500.000 di soggetti tributari si troveranno fuori. Quando le cose vanno male, come vanno male, andranno peggio per effetto delle politiche economiche e dei problemi dell'euro. È davvero impossibile applicare più discrezionalità, come ci diceva Befera? Io non posso guardare in faccia a nessuno e alle sue tasche, Lupi, secondo lei? Si può considerare la situazione economica, cioè non è che l'Agenzia delle Entrate può dire la silvicoltura va bene, la pesca va male, gli alberghi così così, e mettersi a fare il Ministero dello Sviluppo. Questo non si può fare, perché sarebbe un sovraccarico di compiti. Cercare di stimare quanto è stato evaso, per quello che non si fa, è proprio una valutazione personalizzata, caso per caso, come diceva il Presidente prima, della situazione di imposte che deve pagare ciascuno. Cioè, mentre al limite sui grandi ci si arriva, si va a parlare col direttore, sui piccoli purtroppo, e per colpa di quell'idea, io non mi voglio sporcare le mani con gli evasori, sui piccoli c'è un lavoro in serie, probabilmente anche la mediazione, come diceva Zanetti, fallirà, perché se si tratta di un negoziante, di un barista, di un parrucchiere, lì grosse modifiche dell'importo accertato non si fanno, perché il singolo funzionario, piccolo funzionario, non si prende la responsabilità, mentre per Valentino Rossi, altro che erano 80 milioni di euro, viene giù il direttore regionale, tutto, c'è una copertura. sul lavoro di serie di 20-30 mila euro è molto più complicato. Però questo resta, a mio giudizio, uno dei punti più delicati che spiega le proteste di massa che abbiamo iniziato a vedere nel nostro paese, verso le quali io non sono capace di adottare il giudizio liquidatorio secondo quale sarebbero dietro l'effetto di chi vuole manipolare o politicamente per consenso o perché magari è alla testa di rappresentanze di associazione di impresa. Io credo che per un paese così restio a fare protesta civile sulle tasse, come storicamente il nostro, noi non siamo un paese anglosassone su questo che taglia la testa ai re per le tasse, credo che questo sia un fenomeno vero di un'Italia che si trova in difficoltà crescente, con milioni di soggetti che si trovano in difficoltà crescente, e questo aspetto, anche la pretesa tributaria e le modalità con cui si valuta l'articolo 53, cioè la capacità contributiva, dovrebbero ispirarsi a un principio di civiltà giuridica che non sia quello da molti testimoniato di uno Stato che altrimenti finisce per essere, lo devo dire ancora una volta, ladro. Allora, domani e dopodomani noi siamo con i problemi di LTLC, perché siamo al convegno di Capri di tutti i vertici delle TLC italiane, quindi banda larga, il nostro ritardo, investimenti, sviluppo, problemi, ma Facebook e Google sono davvero il futuro, e insomma, e le telco che cosa devono fare? Rimetterci e basta? Un po' di problemi di democrazia e di internet, e speriamo che i mercati oggi non vadano troppo male. Grazie a Lupi, a Goffi, a Impera, a Befera, appuntamento domani nella Giornale Radio.